Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Questa settimana andiamo in onda di martedì, ieri infatti abbiamo lasciato spazio ai commenti sulle elezioni amministrative. In questa puntata ci occupiamo degli sviluppi dell'incontro al Ministero con le associazioni dell'autotrasporto, parliamo di Mare Bonus e Ferro Bonus con l'avvio delle procedure per l'erogazione degli incentivi e quindi torniamo al Gottardo, dove mercoledì scorso è stata inaugurata la galleria più lunga del mondo. In apertura quindi l'incontro avvenuto nei giorni scorsi al Ministero dei Trasporti tra il capo di gabinetto Mauro Bonaretti e rappresentanti delle associazioni. Il nodo da sciogliere riguarda le deduzioni forfettarie per le spese non documentate. Il governo ha proposto 51 euro per viaggio contro i 56 concordati nel testo dell'accordo di novembre. Bonaretti ha spiegato che questa cifra è determinata dalla copertura finanziaria disponibile, che ammonta a 70 milioni. Si complica poi la questione relativa alla decontribuzione degli autisti e quindi agli sgravi per le imprese che svolgono la loro attività prevalentemente su rotte internazionali. Bonaretti ha detto che il provvedimento così come concepito non è conforme alle normative comunitarie e quindi va riscritto. Ma ascoltiamo Amedeo Genedani, presidente di Unatras. Abbiamo avuto due risposte, una in negativo e quell'altra oserei dire in parte negativa, perché noi ci aspettavamo sulle famose spese non documentate il mantenimento dei 56 euro, invece è stato riferito che sarebbero arrivati soltanto 51 euro. Questo è un problema perché il mondo che dell'artigianato in particolare, che è stato quello su cui è stato tolto più risorse, si aspettava questi 56 euro. Non sono tanti, la differenza da 51 a 56, però sicuramente sono importanti per la dichiarazione dei redditi che ognuno di noi dovrà fare, pagare la prima rata entro il 16. Sulla questione della decontribuzione, era una scommessa fatta col governo proprio per competere a livello europeo con gli autotrasportatori degli altri stati che hanno, diciamo, dei costi molto inferiori ai nostri. Su questo secondo aspetto il governo non ci ha dato delle grandi chance, dicendo non si riesce, stiamo valutando, come l'avevamo buttata giù, non si riesce a portare avanti. Proprio per sollecitare il governo a dare seguito agli accordi raggiunti a novembre e poi sostanzialmente recepiti dalla legge di stabilità, nelle scorse settimane Unatras ha proclamato il fermo con modalità ancora da definire e per oggi è fissata la riunione del comitato esecutivo. A questo punto cosa può succedere? Sentiamo ancora Genedani. Alla fine non siamo usciti, diciamo, più di tanto entusiasti da questo incontro, ma soprattutto abbiamo dovuto convocare un nuovo esecutivo a seguito della dichiarazione di fermo. Questo esecutivo costituito dagli imprenditori che andrà a valutare quello che è uscito dal governo e sicuramente la valutazione del proseguo del fermo. Buone notizie invece arrivano dal fronte degli incentivi per l'intermodalità, mare bonus e ferro bonus, in tutto quasi 200 milioni in 3 anni per favorire il trasferimento delle merci dalle strade al mare e alle ferrovie. Anche in questo caso il provvedimento era sotto la lente di Bruxelles. Sentiamo Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto. Abbiamo avuto proprio un incontro con la sottosegretaria Vicari, partono le procedure, quindi le procedure amministrative italiane per rendere operativi rapidamente sia il mare bonus che il ferro bonus, il che lascia intuire che da Bruxelles è arrivato via libera. Ma come saranno erogati questi incentivi? Sul modo di erogazione noi abbiamo raggiunto un'intesa per cui il mare bonus viene dato per forza agli armatori, ma agli autotrasportatori viene garantito il 70% di questo intervento. E la stessa cosa per quanto riguarda il ferro bonus, siamo riusciti a eliminare gli interventi sulle tratte fino a 300 km che non prenderanno praticamente nulla, perché sarebbe voluto significare il finanziamento di coloro che già utilizzano queste tratte. Uno sguardo ora all'Europa. Mentre in Francia proseguono le iniziative di protesta da parte degli autotrasportatori contro la nuova legge sul lavoro e per la Francia sono giorni difficilissimi anche per la drammatica ondata di maltempo che ha colpito alcune aree del paese, in Belgio si annuncia una settimana di tensione. Riprende infatti la mobilitazione contro il pedaggio chilometrico introdotto ad aprile. Dopo le prime azioni di protesta il governo aveva promesso correttivi, ma di fatto non è cambiato nulla. Di qui l'annuncio di nuovi blocchi ai confini con la Francia. The Gotthard Base Tunnel reinforces Switzerland's model shift policy and helps us achieve our objectives of shifting heavy goods from road to rail. We are creating with this tunnel a new, faster link through the Alps. E dal Belgio siamo tornati in Svizzera, da dove la scorsa settimana, tra dirette e speciali, vi abbiamo raccontato l'inaugurazione della galleria di base del Gottardo, che con i suoi 57 km e 100 metri è diventata la più lunga al mondo, un passaggio cruciale fino a 2300 metri di profondità nel corridoio Reno-Alpi tra Rotterdam e Genova. La voce che avete sentito è quella di Doris Leuthard, consigliere federale, sostanzialmente il ministro dei trasporti elvetico, che così ha parlato davanti ai suoi omologhi della regione alpina, sottolineando come questa grande opera possa favorire un ulteriore passo decisivo in direzione dell'intermodalità e quindi della sostenibilità dei trasporti. In Svizzera già il 70% delle merci viaggia su rotaia, in Italia la quota è 10 volte inferiore. Chiaramente la galleria ha acquisito un'ulteriore valenza simbolica, cioè una specie di ponte sotto le Alpi per unire e non dividere in un'Europa tormentata dagli spettri del passato, con barriere e muri che potrebbero prendere forma. Ma cosa cambia per l'Italia con la galleria di base del Gottardo, nella quale da dicembre, cioè da quando sarà aperta al traffico regolare, potranno circolare fino a 315 treni al giorno, in prevalenza convogli merci? A Lugano, dove si sono riuniti i massimi dirigenti delle ferrovie di mezza Europa, lo abbiamo chiesto all'amministratore delegato di Ferrovie, Renato Mazzoncini. Cambia per l'Italia che si avvicina il centro Europa, si avvicina la Germania in particolare, si avvicina a Zurigo, e quindi il sistema ferroviario diventa più competitivo rispetto all'aereo e rispetto all'automobile. Le merci sono, direi, forse anche la ragione principale per cui viene realizzato a Gottardo. La sagoma 4 metri, che è la sagoma che consentirà il sistema merci di diventare veramente competitivo, sarà pronta nel 2020, quando appunto sarà pronto anche il Monte Ceneri, quando tutta l'infrastruttura sarà pronta ad accogliere i treni a 750 metri e con la sagoma a 4 metri. È una grande sfida, il tempo sembra lungo ma in realtà arriva con una velocità incredibile. Le merci incominciano subito a circolare nel Gottardo, ma soprattutto alla fine del 2020 ci sarà questa grande opportunità di avere grandi treni merci che in maniera molto efficiente e quindi anche con bassi costi riusciranno ad attraversare le Alpi su una relazione che è fondamentale. A questo punto, come sentivamo, la prossima sfida è il 2020, quando sempre sul corridoio Reno-Alpi, nel Canton Ticino, sarà pronto il tunnel di Monte Ceneri e quindi i tempi di percorrenza si abbasseranno ulteriormente. Per sfruttare appieno le opportunità che derivano e deriveranno ancora di più da questi collegamenti, entro quella data l'Italia dovrà fare la sua parte, cioè realizzare una serie di opere infrastrutturali tra Chiasso, la pianura padana e Genova. Su questo punto, sempre a margine degli incontri a Lugano, Radio 24 ha sentito il ministro Graziano Del Rio. Noi siamo tarati come la Svizzera sul 2020, contiamo di arrivare nei tempi giusti. Il problema infrastrutturale maggiore in questo corridoio è attualmente ovviamente il completamento del terzo valico, lo scavare il tunnel del terzo valico. I finanziamenti ci sono, l'Italia ha garantito su questo come sugli altri tunnel un finanziamento stabile, piuttosto importante, quindi 2 miliardi e 200 milioni solo negli ultimi due anni vengono garantiti al terzo valico. E quindi le difficoltà sono quelle tecniche, diciamo, di scavo. Abbiamo avuto qualche problema per la presenza di amianto in alcune rocce, ma insomma credo che recupereremo il tempo che abbiamo dovuto perdere per questi problemi. Detto tra italiani, non è un po' imbarazzante? In 17 anni gli svizzeri realizzano un capolavoro dell'ingegneria e noi per fare due stazioni di metropolitana impieghiamo più o meno lo stesso tempo. Forse siamo al punto da fare un cambio di passo decisivo anche in questo senso. Sì, è il motivo per cui abbiamo riformato il codice dei lavori pubblici, il sistema dei lavori pubblici, è il motivo per cui però negli ultimi anno e mezzo, come dimostrano i dati, noi abbiamo bandito il terzo e il quarto lotto del Brennero, il terzo lotto del terzo valico, cioè in poco più di 18 mesi abbiamo fatto i bandi più importanti presenti in Europa, quindi contiamo di chiudere il Brennero entro 10 anni, di fare quindi una lavorazione simile a quella che è stata fatta qua. Siamo in grado, grazie agli ingegneri e ai lavori così accurati, ai bandi così accurati, di poter recuperare il tempo perduto. La parola chiave è l'intermodalità. La parola chiave è l'intermodalità, lo scambio appunto, pensare alla rete, ai corridoi come un tutt'unico, pensare ai porti, alla ferrovia, alle strade, ai valichi alpini, tutto come un unico sistema da organizzare. Questa puntata di Hashtag Autotrasporti finisce qui, grazie per l'attenzione. Noi ci risentiamo lunedì prossimo, sempre alle 13.45, in coda ad effetto giorno. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti. in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.